A proposito della banda Bassotti, siamo in collegamento con Picchio, il cantante. Ciao, benvenuto. Ciao, buonasera, buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Fuggicco. Ciao Picchio, allora ciao. Anche quest'anno ci siamo, si parte per Bologna. Sì, c'è chi è già partito. Mi è arrivato adesso un messaggio di due amici, due compagni catalani che stanno venendo, già sono partiti. E qualcun altro pure. Noi partiremo domani. Bene, quindi domani sera appuntamento imperdibile, ormai un appuntamento fisso ogni anno. Ci vuoi raccontare com'è nato questo evento e la storia di questa canzone che dà il titolo all'evento? La storia della canzone, partiamo dalla storia della canzone? Sì. La storia della canzone è una delle tante volte che siamo venuti su a Bologna a vedere i Nabat o altri gruppi. Insomma, Bologna è sempre stata una delle prime scene musicali punk rock d'Italia, quindi ogni tanto ci imbarcavamo con tutti i mezzi possibili, treni, pullman, autostop, per venire a Bologna a vedere questi concerti e altro insieme a conoscere Steno e altri vecchi amici. E nei vari viaggi del treno poi succedevano varie cose che poi in parte sono raccontate nella canzone che scrisse Sigaro. Insomma, partirò per Bologna. Vabbè, più o meno questa, tutti i particolari magari non si possono dire. Sono cose un po' che meglio non dire, sì, si sa, nei viaggi in treno. Qualche altro particolare ce lo siamo dimenticato perché sono passati parecchi anni. Siamo con la somma dei primi anni 80. Quando veniamo su con tutti i gruppi o le persone, vedete, a banda Bassotti ancora non era un gruppo musicale. Organizzavamo concerti, facevamo palchi come parecchi sanno. Visto che lavoravamo in cantiere, avevamo questa disponibilità di saper fare queste cose, insomma, quindi facevamo le manifestazioni e così piano piano tra noi e tutti gli altri vari gruppi, c'erano i fan, insomma c'era una sorta diciamo di grande famiglia che si sentiva un certo tipo di musica, erano un po' di anni particolari, quindi per riuscire per mantenersi vivi e stare insieme in quegli anni, che non erano anni molto tranquilli, ma sicuramente, probabilmente più tranquilli di quelli di adesso. Si partiva e si veniva su a Bologna, altre volte andavamo a Pisa, io non so, a Livorno, altre parti, insomma. Però Bologna, diciamo, era una meta prelibata. Quindi l'evento, diciamo, nasce un po' per ricordare quei bei tempi quando si era giovani e si partiva a Bologna. Sì, diciamo così, anche. E voi, come dicevi all'inizio, prima ancora di suonare, organizzavate concerti, anche soprattutto iniziative di solidarietà nei confronti dei palestinesi o del fronte sandinista in Nicaragua. So che anche in questo evento di domani ci sarà una raccolta benefica di medicine, materiale scolastico. Sì, diciamo che se abbiamo iniziato a fare queste cose da prima di iniziare a suonare, tutto quello che è l'attività che abbiamo svolto insieme, quasi come un collettivo, diciamo così, abbiamo sempre fatto a scopo di solidarietà o di sostegno alle lotte che ci stavano in piedi, che ci stanno in piedi da anni, insomma. Questo sì. E sì, sicuramente ci saranno delle raccolte ancora per gli orfanotrofi del Donbass, se è necessario anche per la Palestina, anche se penso che è proprio difficile raggiungere la Palestina con aiuti materiali, diciamo così, in questo momento. Sì, e voi appunto avete poi iniziato a suonare a fine anni 80, inizio anni 90, quindi sono passati tantissimi anni. Secondo te com'è cambiata la scena musicale da allora a quella di oggi? Beh, in un certo senso non so se è proprio cambiata, cioè per certi versi sì, perché diciamo che adesso un gruppo se vuole riesce a farsi sentire. Con internet in qualche modo c'è più possibilità rispetto a prima, però poi vai a vedere chi c'è là queste possibilità e non è facile poi crearsi le possibilità. Noi sicuramente non ci abbiamo mai avuto nessuna possibilità, se non quella del fatto di conoscere tanta gente, di fare cose insieme a tanta gente, magari sempre con un motivo e mai per semplicemente per fare della musica o pensando di arrivare a raggiungere obiettivi come posso dire, fa fortuna con la musica, no? Abbiamo campato sempre di lavoro e quindi se abbiamo fatto la musica era una cosa in più per quello che per dar sostegno e per dar vita e resistenza alle lotte, queste cose qua. Non ci siamo mai tirati indietro da questo, è stato diciamo il motore ed è il motore a tutt'oggi della banda, insomma, e dell'attività e soprattutto di chi ci sta vicino, insomma. la banda non si può ridurre a 4 o 8 elementi. La banda Bassotti è l'insieme di persone, insomma. Anche, diciamo, a livello internazionale, perché poi alla fine abbiamo contatti un po' dappertutto. Questa è la cosa più importante, diciamo così. Quindi la differenza che per noi per valutare questa cosa è un po' complicato, perché noi siamo partiti da niente. Ecco, facevamo i palchi, cioè, saltiamo su un palco, facciamo una canzone, diciamo così, facciamo una canzone. Ma chi è che è buono a suonare? Quasi nessuno. Per cui non è che siamo, era più una cosa per divertimento, però il divertimento unito pure a, come ripeto, alla lotta, insomma. Quindi questo qui, se davamo un obiettivo e cerchiamo di raggiungerlo, ma senza avere assolutamente nessun mezzo. Però diciamo che erano gli anni dei centri sociali, c'era ancora un movimento comunista, non dico di sinistra, perché oggi sta parola comincia a diventare un po' antipatica. E quindi siamo andati avanti così. Adesso la scena musicale, io vedo che c'è un sacco di gruppi, c'è un sacco di interesse nella musica. E spero che parecchi di questi che hanno interesse nella musica la mettono a uso pure di quello che serve ai vari popoli, soprattutto anche al nostro, e dargli un senso, diciamo, un senso di lotta. Noi non riusciamo a uscire da questo binario, diciamo così. Ma infatti voi da sempre, insomma, i vostri testi sono sempre molto impegnati di lotta, antifascismo, antirazzismo e tutte le varie lotte sociali. Ho notato questa cosa, però, che ai giorni d'oggi invece sono poche le band che come voi sono impegnate da questo punto di vista. Secondo te perché c'è stato questo calo di voglia di lottare anche con la musica? Beh, io penso, diciamo che per riguardo ai giovani è pure comprensibile questa cosa. Noi abbiamo ancora una memoria storica, abbiamo visto e vissuto certe cose, e molti giovani di adesso purtroppo no, e non è per colpa loro, chiaramente. E quindi non gli si può dare la colpa se magari non intendono, ci stanno, diciamo così, non voglio far confusione. C'è una bassa percentuale dei gruppi che sono impegnati. Comunque l'importante è che ci siano. Quello sì. Penso. E poi se è uno o due non importa, magari nel giro di poco possono diventare migliaia, come abbiamo visto noi giravamo per lo Stato spagnolo, Paesi Baschi, ci sono stati anni pure lì che erano tutti i gruppi impegnati, e poi magari adesso non è più così neanche là, quindi quelli, diciamo, erano territori da un certo punto di vista molto più competitivi riguardo a questa cosa, insomma c'era una buona attività musicale. Lotta, insomma, sosteneva la lotta, insomma, poi i tempi, se non ci sono, ci sono dei motivi, insomma, il divisionismo e certe cose hanno portato anche a questo, insomma. Vero. E veniamo un po' adesso invece alla musica. L'anno scorso avete pubblicato questo EP, si intitola Il futuro e la memoria, e l'avete fatto insieme a quest'orchestra di ragazzi. Se ci vuoi raccontare com'è stata questa esperienza? Diciamo che direttamente, io ad esempio non l'ho conosciuto direttamente i ragazzi dell'orchestra, neanche il direttore, però insomma mi hanno parlato, sono orchestra che sono a mezzi boschi, praticamente, è difficile che suonano, fanno dei concerti, vabbè, nei Paesi Baschi il bosco è un punto di incontro, può essere, no? Un punto di vita, è l'orgoglio anche del basco, il mare, il bosco e tutto quello che era la natura, e loro suonano in mezzo ai boschi, se radunano fanno concerti in mezzo ai boschi, insomma in mezzo alla campagna, un po' sì, così, un po' particolare com'è, come orchestra, e niente, come al solito ci ha fatti conoscere il nostro grande direttore artistico e nonché fonico, dove abbiamo sempre registrato i dischi, con cui abbiamo sempre registrato i dischi negli ultimi 30 anni, Cagli Alcarazzo, ha suonato un po' parecchie band basche, tra cui Negugorri, che è Cortato, e insomma niente, dice c'è la nostra orchestra che vogliamo farlo sto disco, facciamo, e così è uscita l'idea di farlo con l'orchestra e con coro dei giovanissimi, giovanissimi, perché sono quasi tutti, non penso che non c'era nessuno che cantava nel coro che raggiungeva i 18 anni, insomma, tutti almeno sotto i 15, 14 anche. Sì, infatti dalla copertina si vedeva che erano giovanissimi. Sì. E poi nessuno, chiaramente, non è che vanno a scuola di musica. Qualcuno sì, qualcuno sì, ma non credo di canto. Perché poi, insomma, qualcuno che canta un po' meglio ci voleva, perché per mandare dritta a barca. È una bella esperienza anche questa. Infatti sì, sono comunque belle esperienze. E a livello di produzioni, questo EP appunto l'anno scorso, l'ultimo album l'avete pubblicato nel 2021, Avanti Uniti, avete in progetto, in cantiere qualche nuovo materiale per un prossimo futuro album? Guarda, materiale ce ne sarebbe ancora riguardo a delle cose che ha lasciato Sigaro, perché pure parte di quello di Avanti Uniti era stato fatto da Angelo, da Sigaro, e poi ci avevamo là, non siamo riusciti dovuto ai problemi che ci ha avuto Angelo, e poi purtroppo è venuto a mancare, però ci avevamo l'idea di farlo sto disco, quindi poi diciamo siamo riusciti a farlo anche senza di lui, ma anche per lui, che per lasciare cose così non si può fare, per come la vediamo noi siamo tutti, siamo conosciuti in cantiere, e quando si inizia un lavoro si finisce di solito. Non siamo come i palazzinari da adesso che magari prendono l'appalto, se prendono i soldi scappano e lasciano là sti rude, questi scheletri. No, a noi gli scheletri non ci piace lasciarci alle spalle, quindi abbiamo finito quel lavoro che dovevamo fare insieme a Angelo. E per il futuro non saprei che dire. Le possibilità e capacità sicuramente ormai ce le abbiamo. Vedremo un po' com'è la situazione, come evolve la situazione. Spero di sì. Spero di continuare a fare qualcosa, ma non solo per farla, perché pensiamo che magari possa servire a qualcosa, perché fa un disco, fa un'opera o un quadro, cioè deve avere anche, come dire, un obiettivo, deve servire a qualcosa, secondo noi, per quello che è la nostra visione di arte, insomma, cioè deve avere un'utilità, altrimenti non serve. Diciamo che in questi tempi servirebbero parecchie cose, non solo la musica. Vero. E tra l'altro il palco dell'Estragon ci avete suonato una marea di volte anche prima che nascesse Partirò per Bologna, quasi tutti gli anni eravate lì a fare concerti, e comunque è stato anche l'ultimo palco dove ha suonato Sigaro prima che ci lasciasse, e immagino che tornare su quel palco deve essere molto, diciamo, emotivamente non semplice per voi. Diciamo sì. Sicuramente sì, perché quella è l'ultima volta che personalmente che ho cantato vicino a Sigaro, e mi succede sempre quando salgo sul palco, ma pure quando partiamo, perché io guido il furgone in genere, e Angelo si metteva dietro di me, per cui so che dietro di me non c'è Angelo, ci sono altre persone, me lo sento dentro io Angelo, perché diciamo che ho passato più tempo con lui che con le figlie mie o con mia moglie, perché lavoravamo insieme, andavamo in giro solo insieme, se vedevamo andavamo in giro insieme, quindi ho vissuto più tempo con lui che con qualsiasi altra persona, genitori compresi, e quindi quando sali là, diciamo che lì c'è stato il punto finale, insomma, dell'attività insieme a Angelo sul palco, e la cosa, l'emozione è grande, però bisogna essere forti e mantenerlo presente in vita, secondo me, salendo sul palco. Ci ho pensato un sacco di volte personalmente se era il caso di continuare oppure no, ma lui una delle ultime cose che ha detto fu proprio Avanti Uniti, e quindi per rispetto, finché ce la possiamo fare andremo avanti uniti, se non saremo più uniti comunque andremo avanti, cioè, può tornare. Esatto. E quindi comunque domani sera sicuramente, diciamo, è come se fosse ancora con noi lì a divertirsi, a suonare insieme a tutti noi. E quindi ci diamo appuntamento domani sera all'Estragon con il Partirò per Bologna. Io ti ringrazio tanto, Picchio, per il tuo tempo, per questa intervista, e ci becchiamo domani sera. Bene, grazie Peter, grazie alla radio, grazie a chi ha avuto la pazienza ad ascoltarci. Un abbraccio a tutti, a domani. Ciao. Partiremo con Bologna a breve. Dai. Ciao, grazie ancora. Ciao. Grazie a voi, ciao.